English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di una delle attrici del momento. È giovanissima eppure ha già una lunga carriera alle spalle e chissà che carriera avrà davanti a lei. Parliamo di Scarlett Johansson, bellissima, bravissima, celebratissima. Ci parla di lei un articolo tratto dal Sunday Times e che noi abbiamo la possibilità di ascoltare dal CD allegato al nostro English 24 in edicola. Forse non è il momento migliore per Scarlett Johansson. Questo articolo si fa delle domande, ma ascoltiamo insieme un estratto. What on earth has happened to Scarlett Johansson? The poised young woman in pin-neat Louis Vuitton and a hefty inch of makeup on the sofa of a London hotel is barely recognizable as the carefree indie princess who, so they say, used to have sex in lifts. She's not even blonde anymore. Oh, it's just a hair color, sighs Johansson, raking a manicured hand through her new cherry locks and curving her curves into an inky black question mark. Her voice, a surprisingly mannish baritone, sounds like Velcro being slowly peeled back. I'll be red, I'll be blonde, I'll be black. When you work, you maintain the same look for a whole period of time, and when you're finished, you want to cut your hair off, change something about yourself. Maybe that was a little bit of it. Allora Giulia, io subito protesto. Intanto è più carina Mora, secondo me, nella foto che abbiamo sul nostro English 24 è veramente bella. Poi non è giusto che, insomma, perché non è bionda debba essere triste. Insomma, si parte in questo articolo del Sunday Times dicendo, ma insomma, cos'è successo a Scarlett? È un'espressione che non riusciamo a tradurre perché noi diciamo piuttosto ma cosa mai è successo, ma cosa cavolo è successo. In inglese si dice what on earth has happened to Scarlett? Che cosa sulla terra, ovviamente non possiamo tradurlo letteralmente, però letteralmente sarebbe questo, è successo a Scarlett, perché l'abbiamo conosciuta soprattutto negli ultimi anni come una fatalona. Poi in realtà, vi ricordate The Horse Whisperer, dove lei era la protagonista che perde una gamba in un incidente di cavallo? In realtà lo sappiamo, quando era bambina non era una bionda naturale, era una castanina, quindi insomma ce la siamo inventati dopo la Scarlett biondo Marilyn. Che cos'è una poised woman? È una donna, poised vuol dire anche essere convinti, essere sicuri, poised woman, quindi quella donna sicura di sé, quasi una figura scultorea e che incute un po' di timore all'altro sesso, proprio perché è così statuaria, forse anche aiutata da questo hefty inch of makeup, cioè l'inch è il pollice, naturalmente, quindi noi diremmo un centimetro, anzi un centimetro e mezzo, perché un pollice è circa un centimetro e mezzo, di hefty makeup, di makeup di trucco pesante. Adesso quasi non la si riconosce più, dice l'autore del pezzo. Insomma, non è vero, è sempre lei, però insomma con un po' di esagerazione effettivamente pare che non assomigli più a se stessa. Barely recognizable, bare vuol dire anche nudo, però in questo senso è, appunto, è usato come quasi, quindi quasi non riconoscibile. Una volta era la carefree indie princess, attenzione perché qui è tutta un'espressione particolare, intanto indie che sta per independent. Cioè lei, dopo appunto il Horse Whisperer, ha fatto anche molti film indipendenti ed era la principessa di questi film indipendenti, oppure anche una principessa indipendente carefree, cioè che sembrava proprio non guardarsi di nulla e pensare soltanto a ciò che le piaceva e a come piaceva a lei apparire e fare colpo soprattutto. Anche perché si dicevano cose piuttosto piccantine. Si diceva in inglese, so they say, così dicono, she used to have sex in lifts. Used to era quella, l'espressione che noi possiamo tradurre con era solita avere, quindi si diceva che fosse solita avere e fare sesso in lifts, negli ascensori. Tra l'altro questo ci spiega anche da dove viene il pezzo, perché un americano avrebbe detto elevator, perché ascensore è così, invece lift è il modo inglese per dire ascensore. Io ho detto che adesso è castana, in realtà è un po' più rossiccia, insomma delle sfumature. Come viene definita in questo pezzo? E infatti questi cherry locks, i locks sono i boccoli, e cherry naturalmente ciliegia, quindi sono dei boccoli che hanno qualche cosa appunto di rossiccio, un po' con questi riflessi che ingannano tra il nero e il rosso. Anche, insomma, fatale anche quello, come dici tu Marta, perché è bionda uguale fatale e nera no? Noi per inciso siamo una nera e una bionda. Non diremo qual è la bionda e qual è la mora, anche se si è capito. Si parla anche della voce, che tra poco sentiremo di Scarlett, una voce molto particolare. Per spiegarla, il giornalista dice che sounds like a velcro being slowly peeled back. Il velcro, naturalmente, quello che conosciamo anche noi, questa chiusura ormai usata per tutto, dalle scatole dei piselli alle sneakers. E slowly peeled back, to peel vuol dire sbucciare, ma anche tirare indietro. Quindi quando anziché strappare si tira indietro lentamente, questo sarebbe il suono della voce di Scarlett. Oddio, non so se è un complimento. Lo sentiremo tra qualche istante. Voglio solo chiederti un'ultima cosa. Da questo estratto lei fa un'affermazione molto femminile, dice: ma come, bionda, mora, a me piace cambiare, è una cosa che fanno tutte le signore. E poi insomma le attrici, forse appunto, che devono maintain the same look for all period of time, che devono avere lo stesso look se non altro per tutto il periodo in cui filmano quando fanno un film. E poi però you wanna change something about yourself, puoi cambiare. Noi donne effettivamente abbiamo la fortuna di poterlo fare con una certa facilità, ci è concesso cambiare colore di capelli per esempio senza sconvolgere quasi nessuno. E questo, quindi, dice la giornalista, maybe that, cioè il cambio di capelli, was a little bit of it, cioè un pochino di questo cambiamento. Vabbè, minimizza giustamente, ma andiamo appunto a sentire questa voce di cui abbiamo parlato. Scarlett ci parla dell'ultimo film, la verità è che non gli piaci abbastanza, ecco perché ha scelto di farlo. I just hope that audiences have a good time and are entertained, and you know, I hope that it's the kind of film where people can watch it and be like, oh my God, the same thing happened to me, or whatever, you know. It's a very kind of, the script felt very real to me and honest, so I hope that the audience has that same reaction that I had when I read it, which was kind of, you know, that sort of like, you know, you can't believe how some of these scenarios relate so closely with your own life or your best friend's life or something like that. So I hope that people, you know, enjoy it and think it's funny and kind of slice of life. Ecco questa voce velcro di cui ci parlavano poc'anzi e anche un accento un po' particolare. Intanto spiega quello che l'ha spinta a scegliere questo film per l'effetto che avrebbe fatto sul pubblico. Sì, dice sostanzialmente che è un film leggero, quindi che è un film molto entertaining, e quindi the audience, il pubblico, has a good time, cioè si diverte, non piange presumibilmente, anzi ride molto. E qui spiega, e vi prego di notare, tanto lo risentiremo, quante volte usa la parola kind. È proprio un intercalare, è l'equivalente, anche se non ha esattamente lo stesso significato, del nostro cioè, ma lei proprio, ma più che un intercalare, quasi come se non trovasse le parole. Lo usano tantissimo gli adolescenti americani. Scarlett non è più un adolescente, però lo usa molto lo stesso. Arriva addirittura a dire sort of like, che sarebbe come dire cioè di cioè. Comunque, insomma, poi in realtà la voce appunto non è molto sensuale, io trovo, più che suonare come il velcro. Tra l'altro lei racconta che questo film l'ha scelto anche per la sceneggiatura. Sì, dice proprio che the script, quindi la sceneggiatura, felt very real and honest to me. Cioè a me è sembrato, mi ha dato la sensazione di essere molto vero, real e onesto, nel senso di riprodurre, addirittura poi lo spiega bene, certi scenari della vita, scenarios that you can relate to, anzi you can relate to very closely. Sostanzialmente lo script era, secondo lei, ma è abbastanza vero, non so chi conosce la storia di questo film, è tutto sui rapporti di coppia, ci sono, e quindi lei spera che le persone dicano oh my god, that really happened to me, cioè che ci si riveda nel film, magari con qualche sfumatura, le storie d'amore non sono mai uguali, però spesso ci si riconosce. Certo, puoi dire è successo a me oppure a qualche mio amico. Sì, dice appunto so close, these scenarios relate so closely to your life or some of your friend's life, quindi poi insomma tutte noi, soprattutto quando eravamo più giovani, ci facevamo raccontavamo le nostre storie d'amore, quindi abbiamo tutte un grandissimo campionario di storie spesso non fortunatissime da spiegare. Per riconoscersi ampiamente in questo film, ma sentiamo cosa Scarlett Johansson dice del regista Ken Kwapis. He's been just, he's a real actor's director, which, you know, always surprises me because I never really know going into a project whether the director is going to be just all about kind of the visual and the look of the film or whether I'm going to have a real support, you know, real emotional support. And Ken just has the most amazing suggestions. He just surprises me all the time. And, you know, he really has an amazing kind of gentle way about him where he'll kind of let you get to like find your own conclusion even though he might have known the answer way before the discussion ever came up, and it's like this very kind of zen thing that he has. It's It's really cool. I love working with them. Sì, veramente kind of, ogni due parole è il suo intercalare preferito. Allora, lei lo definisce il regista Ken Kwapis in una maniera un po' particolare. Dice, è un actor's director. E ovviamente uno dice, beh, che cosa dovrebbe dirigere se non gli attori, cioè il regista di attori. Però ha ragione, nel senso che il regista in realtà ha talmente tante cose di cui occuparsi che gli attori sono solo una di queste. E però lei dice, it always surprises me, quindi resto sempre sorpresa invece da quanto è attento agli attori. E quindi dal tipo di real support, quindi di vero sostegno che fornisce agli attori, che sappiamo spesso sono persone molto fragili, molto insicure. Sì, perché il regista si deve anche occupare dell'aspetto visivo del film, lui invece si occupa anche dell'aspetto emotivo, il visual look of the film and the emotional support. E Scarlett dice che poi insomma ha già lavorato tanto, probabilmente con gli anni saprà identificare meglio i registi, però lei dice quando I'm going into a project, quando scelgo un progetto non so mai whether it's gonna be about the kind of visual look of the film, cioè se sarà un regista che appunto privilegia quell'aspetto, cioè il quadro generale, oppure l'altro aspetto, the actors, e che dà questo real emotional support agli actors che evidentemente probabilmente soprattutto se sono giovani hanno appunto bisogno di tutte queste conferme e anche consigli da parte dei registi. The most amazing suggestions. Most amazing suggestions. Naturalmente amazing, vi ricordate le amazing stories di Steven Spielberg? È un aggettivo molto usato e può essere appunto fantastico nel senso di quasi fantascientifico e poi anche sorprendente. Quindi suggerimenti sorprendenti, ecco, questo è un false friend, non suggestioni ma suggerimenti sorprendenti che ovviamente sorprendenti in positivo, cioè l'attore scopre dal regista un modo nuovo di interpretare il suo personaggio. Sì, perché Scarlett pone l'accento proprio su questo aspetto di collaborazione, di gentilezza, di lavorare insieme. Evidentemente a lei piace molto, fa molto piacere. Sì, e poi dice che lui è gentile anche in un altro senso, che non impone, cioè alla fine l'attore ha l'impressione that you find your own conclusion, cioè che arrivi tu a un certo tipo di interpretazione, ma forse lui lo sapeva già, he had known even before the discussion came out. Quindi è come se lui avesse molto chiare le cose, ma non le vuole imporre, vuole dare questo emotional support in modo che gli attori trovino la loro voce. E la straordinaria Scarlett ancora una volta si concede delle espressioni molto giovani, molto gergali, molto colloquiali. Lei è giovanissima nonostante questa carriera molto lunga, insomma ha anche delle espressioni da ragazza, qual è? E infatti dice it's really cool, naturalmente sappiamo vuol dire fresco, molto fresco, però vuole anche dire bello, carino, figo diremmo noi, ecco. Quindi è proprio bello lavorare con questo regista. I love working with him. Salutiamo Scarlett Johansson, che comunque ritroviamo nel nostro English 24 in edicola, perché il nostro tempo radiofonico finisce qui. Io ringrazio Carmelo Lauricella in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.